colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Alma 101.9 a Bruxelles. È una bellissima serata, si è finalmente schiarito il cielo e diamo il benvenuto e la buonasera anche a Carla, che è qui di fianco a me, e ad Angelo, che è in regia. Bellissimo come sempre. Buonasera, buonasera a tutti. In mancanza di sole, oggi Angelo sei vestito di giallo. Buonasera a tutti. E voi non lo vedete, ma c'ha un cappuccio, si sta ibernando perché in regia c'è un'aria condizionata un po' bassina, ci ha detto, e quindi ecco, lo vediamo svernare. Tra poco mette guanti, cappello, sciarpa, ed effettivamente qui il tempo a Bruxelles non è dei migliori, ma cercheremo di riscaldarvi e di farvi compagnia stasera dalle 21 alle 22, come tutti i lunedì. Noi siamo una delle quattro equipe dei colori dell'anima, e niente, Angelo, ti va di fare un saluto ai nostri radioascoltatori? No, dice tra che l'altro il ghiaccio si è, non so se hai notato, ma Angelo ha in questo momento una felpa che è esattamente del colore della cornice del vetro al di là del quale è, quindi se riusciamo dopo postiamo una foto di questa sua grande classe. E sì, stasera la vedo in forma, Cecilia, la vedo in formato sia informatico, che è stata appena scoperta l'identità di camionista di Cecilia. Sì, è vero, mi hanno detto che potrei guidare, che sono sufficientemente forte da poter guidare un camion. Ecco, e ci ha smontato tutti, ah no, questo non lo dovevo dire, tutti i microfoni, tutte le cuffie, ah no, questo ecco. Però li abbiamo anche rimontati. Ecco, troverete tutto a posto. Non... Se Rosanna sta sentendo, abbiamo rimontato tutto, è come prima. Ecco, anzi meglio. E stasera quindi finalmente dopo le feste di Pasqua ci siamo assestati, siamo tornati a Bruxelles dopo una parentesi. Rotolando siamo ritornati alle nostre postazioni. Rotolando verso nord. Rotolando verso nord, dopo ci siamo anche visti a Pasquetta. A Pasquetta già è partito un momento musicale. E... che dire d'altro? Ma non abbiamo ancora dato i numeri... di telefono. Allora, lo 02 345 26 56 per chiamarci sul fisso, e nel caso in cui voleste scriverci sulla nostra pagina Facebook, è Angelo e Carla on air. Nel caso in cui voleste mandarci un messaggio potete farlo allo 0471 e... il resto è vuoto di memoria. 0471 40 78 04. Ripeto, 0471 40 78 04. Ed ecco, siamo riusciti a farle parlare. In realtà io il tuo numero lo sapevo benissimo, Angelo, però sono tutte tecniche psicologiche per costringerti a parlare stasera. Ma allora, devo prendere appunti. Il taccuino, quello là, il promemoria. Esatto. Ma stasera vi starete sicuramente chiedendo di cosa parleremo, ma non ve lo diremo perché adesso ci sarà un intervento musicale. Carmen Consoli, Sintonia imperfetta. Buonasera a tutti di nuovo, bentornati dopo questo bellissimo momento musicale. Siamo Radio e Alma 101.9 a Bruxelles. FM a Bruxelles. E dici che forse è arrivato il momento di cominciare a parlare un po' del nostro ospite misterioso di questa sera? Ma tu vedi qualcuno? Sì, io vedo qualcuno. Io vedo te. Prima vorrei dire in introduzione al posto. Introdurre già il nostro ospite. Io non so, avrei delle allucinazioni, non capisco di cosa tu stia parlando. devo andare al CIM e farmi ricoverare perché ho dei problemi di allucinazioni che vedo solo io. Esatto. Aspetta, ma stai parlando del nostro ospite? Sì. Ho capito, sì, ma direi che è arrivato il momento, no? È passato un quarto d'ora e che facciamo? Facciamo aspettare i radioascoltatori così? Che si stanno chiedendo, dobbiamo sorbire Cecilia e Carla per tutta la sera, no, che vaneggiano. Vi rassicuriamo, non vi dovete ammorbare stasera con me e Cecilia, soprattutto con Angelo stasera, particolarmente silenzioso, che mangia la sua insalata. Ma stasera saremo in compagnia di una bellissima ragazza. Voi non la potete vedere, io avevo l'allucinazione, anzi Cecilia aveva le allucinazioni, io non la vedevo, ma adesso di fronte a me abbiamo come una bruna, no, una rossa, una... Brunette. Come la definirebbe in francese? Come dicono en français. En français? E una brunette, anche dagli occhi brunette, come... no, sono bruni, sono castani, ma ha anche una voce. Sì, sì, ha una voce. Non facciamo so se un test, vediamo se ciao, parla. Ciao a tutti. Ah, ecco, vi presentiamo Annie. Sì, grazie per l'invitazione, Cecilia. Buonasera, grazie a te di essere venuta e di subirti queste due presentatrici. Guarda, non te le raccomando affatto. Ok, c'è sempre una prima volta anche in radio. Purtroppo ti è capitata con noi, ma vabbè, poteva forse andare anche peggio. Ecco, poteva piovere. Allora, Annie, ma tu ti dirai, ma perché sei qua? Perché mi hanno invitato? Allora, Cecilia mi ha invitato perché parlo un po' l'italiano. E io direi senza un po'. Esatto. Non facciamo no, le timide. Vorrei solo aprire una minuscola parentesi. Io ho scoperto, lavoro insieme ad Annie da ormai 4 anni. E ho scoperto però qualche mese fa, che parla italiano. Sì, ho scoperto oggi che E ho scoperto in oggi che è anche vissuto che, in Italia. Sì, sono ho veramente vissuto in Italia per quasi del un anno. Del tipo tu gli stavi vicino e gli dici, ma vedi questa, o non lavora mai. E lei zitta per mesi e mesi. E oggi esatto. Ciao, sta burina! Ma guarda che potrebbe anche non capirti perché Annie ha vissuto a Brescia, quindi questa, a oggi, Burina magari. Oggi pure. Gioco io in casa, va, che per una volta riportiamo un po' la bilancia di questa trasmissione un po' sul nord dell'Italia. Devi sapere comunque, Annie, che ci sono periodi di contesa. Davvero? Di chilometri da tirare, facciamo chi fa più puntate. No, dai. No, in realtà... No. No, in realtà no, perché sì. Io sono sempre stata in minoranza spudorata. Spudoratissima. E quindi ero l'unica nordica di questo studio. Allora, ecco, stasera ce ne sono anch'io. Olè. Con un accento bresciano, mi dicono. Perché sono stata a Brescia, ovviamente. Quanto tempo? E sono stata a Brescia per un anno, però visito sempre, tutti gli anni. Vado spesso a visitare i miei amici italiani che sono lì. E come sei capitata a Brescia? Allora, è una storia un po' lunga. Abbiamo tempo, Annie? Tempo, di sicuro. Abbiamo voglia. Allora, tanti anni fa, quando ero a Montpellier, facendo un anno di Erasmus, ho conosciuto... Bellissima città universitaria, sì, piena proprio, di sole, sì, proprio sì. Come qua, del sud della Francia. Sì, bellissima. Con un cielo blu sempre, sì. Poi, non come qua. Però la prima settimana a Montpellier è stata un po' difficile perché ero completamente sola. E allora la seconda settimana, la mattina, un lunedì all'università, ho visto un gruppo di giovani e ho sentito che parlavano in italiano. E allora, anche se sono una persona normalmente timida, sono andata subito. La forza della sopravvivenza. Eh sì. E ho detto, ciao, io sono Annie. Siete magari con Erasmus qua? E loro hanno detto di sì. E penso che avevo la figura proprio tragica perché di questo momento e poi ero sempre con loro, non mi lasciavano mai. Dunque, è così. Sei stata adottata. Sì, esatto, sono stata adottata. E è là che ho conosciuto la mia migliore amica Laura, che è italiana. E allora sì, ho deciso di imparare l'italiano, fare un corso di italiano in Grecia un po' dopo e... Aspetta che qua trapelano informazioni. Come mai sei andata in Grecia poi? È perché sono greca. Ah, ecco. Sono greca dalla Grecia, sì. E niente, allora sì, quando sono tornata in Grecia per finire l'università ho fatto anche un corso di italiano. E ho visitato tante volte Brescia, dove erano questi amici da Montpellier. E qualche anno fa ho vissuto a Brescia per qualche mese, dove insegnavo l'inglese. Perché sono nata in Sudafrica, ecco. Evviva! Dunque, parlo anche l'inglese molto bene. E allora sì, insegnavo l'inglese. Quindi lingua scuole, materna, lingua sì, materna sì. Greco, poi inglese, tutte le due. Inglese greco sì. E poi c'è l'italiano e il francese. Sì, esatto. Perfetto. E lo spagnolo, non lo so. Lo sto imparando, non possiamo proprio dire che lo parlo. Guarda, ti stavo per rimproverare, perché comunque sì, quattro perché fa un po'... Una dovevi e una in più, dai. Sì, ecco. Bene, e quindi, partendo dall'Italia siamo andati in Francia, passando per la Grecia e tornando in Africa. No, no, abbiamo iniziato il discorso. Però in realtà tutta la storia cominciò, non diciamo il giorno e l'anno, perché questo siamo signore, non lo diciamo, ma cominciò in Africa, in Sudafrica. In Sudafrica, sì. Sono nata in Sudafrica, ho finito la scuola in Sudafrica e sono andata in Grecia per fare gli studi all'università quando avevo 18 anni. Dunque, e che città della Grecia? Dai, sponsorizziamo la tua allora, città. Allora, Salonico, al nord, vicino a Chalkidiki, dove il mare è proprio bellissimo. Dobbiamo prendere appunti per questa Sì, certo, certo. Dovete. Magari sarebbe bello avere due parole sulla tua città d'origine, sapere un po', magari per chi è all'ascolto e programma vacanze quest'estate in Grecia o magari non in Grecia e magari sogna un posto al sole, magari possiamo dargli qualche indicazione, ma tutto ciò dopo il brano che Angela la regia ci propone. Cristina Donà, Miracoli. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera. Allora, abbiamo qui con noi questa sera Annie, che è una mia collega e amica greca, per cui abbiamo questa musica che ci accompagna, tipicamente greca, e stavamo parlando proprio prima di sentire il brano musicale, stavamo parlando un po' della Grecia e chiedevamo consigli per posti da visitare o dove passare le vacanze, perché ci hai detto che sei di Salonicco. Sì, di Salonicco. Nella parte nord dici che il mare è molto bello. Io non sono stata solo una volta in Grecia, quindi non... Tanti conoscono solo le isole, sì, però diciamo... Confermi. Sì, confermi, ecco. Però ce ne sono delle belle spiagge anche nell'altra parte della Grecia, non solo sulle isole. Quindi sulla terraferma, insomma. Sì, esatto. Comunque penso che Salonicco e Chalkidiki, dove il mare è molto bello, è abbastanza conosciuto in Italia, perché è sempre anche lì pieno di italiani ormai. Gli però. Italiani sono ovunque. Sì, sono dappertutto. Mese di agosto. sì, soprattutto in agosto. Però per quelli che non lo sanno, vabbè, Salonicco è una bella città, non molto grande, un po' come Bruxelles. E dunque c'è anche il volo di Ryanair e possono andare anche per un long weekend. Ah. Anche adesso, voglio dire, prima proprio dell'estate. E molto che interessante. Tempo fa adesso a Salonicco? Fa più caldo da qua, non so, tranne 18 gradi, 20, e di solito... Il primo bagno, un salonichese, quando è che se lo fa? Primo di maggio, di solito, quelli coraggiosi, no? Come in Puglia. Però sì, diciamo che non è così calda l'acqua, è sempre meglio di andare... Ma un primo bagno piacevole, non una tortura? Luglio. Io l'ho fatto... Il 25 aprile, la settimana scorsa. Ma dai. Ecco. No comment. No, scusate, il 18, perché la settimana scorsa stavo qua. Il 18 aprile, a Scario, era gelida l'acqua, però ne bazza la vena. Infatti perciò è malato, diciamolo. Stavo pensando la stessa cosa, ma non ho voluto dirla perché non mi pareva carino. Non mi pareva carino. Comunque. E dunque, a parte di Salonicco, per l'estate proprio c'è Chalkidiki, che è anche molto conosciuta, con tante spiagge. Ci sono, diciamo, in Grecia tre piedi, c'è il primo, il secondo, il terzo è dove ce ne sono tutti i monasteri di Athos, e solo per i ragazzi, purtroppo. Però il primo, sì, Mount Athos. Illuminaci, tre piedi. Sì, la terra che fa una penisola, non so come si chiama in italiano, sono tre, Dunque, okay, i primi due vicino a Salonico sono aperti a tutti, cioè sono pieno di alberghi, eccetera. Però il terzo appartiene alla chiesa, tipo Vaticano a Roma. Mm-hmm. E allora è solo per gli solo per gli uomini, sì. Non, le ragazze non possono entrare, possono fare un giro in barca, però fine lì. Mm-hmm. Ok. Ecco. Il piatto tipico di Salonico. Ah, non penso che c'è un piatto tipico. Abbiamo tanti piatti, sì. Non è come in Italia dove c'è sempre pasta, pasta, pasta, per esempio, o pizza, pizza, pizza. Abbiamo la cucina un po' più diversa, con tanti tipi di... Sì, c'è souvlaki, tzatziki, però quello facci è dappertutto. Facci sognare, dici dettagli. La spanakopita, che a me piace tanto. Spanakopita, tiropita, sì. No, c'è dappertutto, mangiamo carne, tanta insalata, anche la pasta, la pizza, tutto, tutto. Pomodori che sanno di pomodoro, suppongo. Sì, perché c'è il sole, c'è il caldo, dunque tutto ha un altro sapore, come in Italia. Come in Italia, sì. Ecco. Bene, io mi sento violentata in questa temperatura brussellese, raccontando di mare, sole, barche, bagni per uomini. Io però mi sento... diciamolo, perché poi è anche importante, credo, soprattutto di questi tempi, che della Grecia si sente parlare, almeno nei media italiani, soltanto in termini di crisi, di litigate sì, tra la Germania e la Grecia. Quello è un altro capitolo. Sì, sì, no, le cose sono molto molto difficili, sì. È terribile. Però diciamolo che insomma la Grecia è terra di insomma è il paese che ha regalato la democrazia, almeno la definizione di democrazia, a tutto il resto del mondo. Dobbiamo in fondo dire tutti quanti un grande grazie ai greci, e quindi grazie. Approfittiamo per invitare chi ci ascolta, se avete dei dubbi, al posto di andare nei soliti posti, andate a fare un giro in Grecia. Sì, venite. Tra l'altro si mangia molto bene. Sì, si mangia molto bene, è vero. Ovviamente noi abbiamo appena ricevuto dei fondi sostanziosi dalla regione del nord della Grecia per fare questo piccolo spot che ovviamente esatto. Sentì ascoltato da milioni e milioni di persone in tutta Europa, quindi noi li salutiamo caldamente invitandoli quindi a prenotare. A mandare le olive che mi avevano promesso, perché io sono una grande... come si dice, golosa, fan delle olive greche, italiane, tutte le mangio in realtà, però quelle buone. Quindi io penso che ci stiano aspettando dei grossi cartoni pieni di barattoli di olive che dopo mangeremo lautamente, ma mi sembra torniamo... che questo viaggio si era un po', era rimasto un po' in sospeso, quindi nata in Africa, partita per gli studi in Grecia e poi... Ma raccontaci, io più che altro posso ritornare sul Sudafrica, perché io sono molto curiosa, perché c'erano i tuoi genitori che lavoravano quindi in Sudafrica, se sei sì, nata lì. Sì, sì, i miei genitori sono partiti dalla Grecia negli anni 70 e poi hanno lavorato per tanti anni in Sudafrica, dove sono nata io e mio fratello, ho finito la scuola lì. E sì, dopo ho deciso che volevo andare in Grecia per fare gli studi, per ragioni diverse, diciamo la prima ragione perché all'epoca Sudafrica era molto pericolosa, la situazione, tanta criminalità, eccetera, purtroppo la situazione non ha cambiato, però sì, era stata la ragione per cui ho deciso di partire e venire a vivere in Europa. Perché tu mi hai detto oggi pomeriggio stavamo parlando e mi hai detto che tu hai vissuto il Sudafrica, tutto il tuo periodo in cui hai vissuto in Sudafrica era il periodo dell'apartheid. Sì, è vero, perché sono partita negli anni 92 e l'apartheid ha durata da 48 fino a 94, quando abbiamo avuto le prime elezioni in cui Nelson Mandela ha vinto. Perché ricordiamolo magari per chi ci sta ascoltando, insomma, poi è stato uno dei grandi drammi, forse delle grandi vittorie forse degli anni 90, la fine dell'apartheid, che era questo regime di separazione sì. tra i bianchi e i neri, però ed era questo abbastanza l'unico, ma era che era in un paese in cui la maggioranza erano africani, erano di colore, quindi la minoranza bianca in qualche modo aveva, e com'era la vita? Si viveva in compound? C'erano delle... No, direi piuttosto che gli africani vivano in compounds. A loro erano? Sì. Scusate, per un ignorante, cos'è una compound? Una comunità? Locali, sì, comunità chiuse. Dove, sì, è tipo come se fosse una sorta di ghetto, forse. Sì, o... tipo un ghetto dove... Dove non puoi uscire o in qualche modo c'è, sì, il controllo. Per esempio, all'inizio dell'apartheid, di quello che ho letto anch'io, perché... Vabbè, eri piccola, quindi... Sì, ma anche prima della mia nascita... c'erano tanti controlli, per esempio non potevano gli africani camminare in strada dopo le 6 il pomeriggio, dunque dovevano essere in questi compounds come Soweto, per esempio, che è molto conosciuto, e dovevano vivere lì. I bianchi erano liberi a vivere dove volevano, dunque essere bianco all'epoca era veramente, sì, un paradiso. Essere in Sudafrica, tante possibilità per lavoro, cioè potevi avere una bella casa, una bella macchina. Ma qual era la percezione di un bianco verso un Ma guarda, per farti capire, i miei genitori, che erano stranieri in Sudafrica, non avevano il diritto di voto. Dunque tutti questi stranieri erano bianchi, però non avevano, non potevano dire che se era giusto o no. Eravamo un tipo invitati, potevamo lavorare lì, però fine lì. Ma voi come li vedevate, al di là dei diritti che avevate su di loro, come li vedevate, come li percepivate? Io, essendo piccola, non li vedevo proprio, cioè, per dire, la scuola era proprio solo per le persone bianche, dunque non avevo amici bianchi. Là dove abitavo era una regione solo per i bianchi. Dunque li vedevo magari in un negozio, però non avevo, cioè, neanche la curiosità dove vivevano, dove andavano alla scuola. Sentivo che avevano la loro scuola, una scuola diversa, dunque, cioè, per una bambina non era qualcosa... E i vestiti che portavano? No, i vestiti erano come i nostri, solo che non li vedevi. Andavi a un ristorante, era solo per i bianchi, per esempio. L'ospedale? Cinema. L'ospedale anche. E poi questo poco poco ha iniziato a cambiare, sì. Per esempio, già quando io ero avevo 15 anni, per esempio 16, già potevi vedere che potevano anche loro mangiare nei stessi ristoranti. Non era come all'inizio. Però quello che devono capire è che un grande parte della popolazione bianca non aveva un diritto a cambiare qualcosa, perché non avevamo neanche... E chi aveva il diritto al voto? Solo quelli sudafricani, che erano proprio sudafricani, nati in Sudafrica. Gli Afrikaans o no? Sì, Afrikaners, Boers, per esempio, erano le persone che sono andati in Sudafrica tanti tanti anni fa, dall'Olanda, dall'Inghilterra, dalla Germania, eccetera. I Boeri, credo che si chiamasse, sì, erano quelli primi immigranti da Olanda. Poi sono venuti anche gli inglesi, per esempio, c'è stata anche una guerra tra i Boers e gli inglesi, hanno vinto. Annie, penso che sia un libro aperto e stasera ti registriamo per tutti i ragazzini che devono studiare queste cose, sui libri sono così noiose, ma dette da te sei davvero, davvero interessante. Però purtroppo dobbiamo interromperti, ma per una buona causa, perché Angelo ha da farci ascoltare un brano... Ed eccoci qui ritornati su Radio Alma, dove stiamo scoprendo una situazione che poi per chi è europeo ed è in Europa magari adesso si legge sui libri, ma che in qualche modo era sconosciuta. Perlomeno io mi ricordo, quando ero piccola, che di Sudafrica, di tante cose di cui si sentiva parlare, non... del Sudafrica soltanto a partire dagli anni 90 forse qualcosa, perlomeno in Italia, o dai miei ricordi, ma io ero piccolina. Però durante l'intermezzo musicale che, se non vado errato, è Masekela. Ecco, mi stanno facendo cenni dalla regia, tipo come potevi sbagliarti. E stavamo parlando appunto dell'apartheid e di che non, come si pronuncia, come lo veniva pronunciato intanto questa parola in apartheid. Sì. In inglese, ok, che significa separazione in Afrikaans, che è un misto tra l'olandese, sì, un tipo di olandese vecchia. Ok, vedi. Misto a inglese e africano? No, è olandese di 300 anni fa, praticamente. Non è inglese, no. Afrikaans è proprio la lingua dei Boers, che erano immigranti che sono venuti dall'Olanda, sì. Che poi probabilmente si è sviluppato in maniera abbastanza, insomma, autonoma. No, penso che non si è sviluppato. È rimasto fermo. Sì, sì, se parli con una persona dell'Olanda, ti dice che sì, è una lingua che non ha avuto un'evoluzione. Come se noi incontrassimo Dante e ci facessimo una chiacchierata, sì, con lui oggi, non sapremo assolutamente che cosa sta dicendo, probabilmente. Comunque, leggevamo prima, ci stavamo insomma un po' documentando, insomma l'apartheid era proprio una vera e propria separazione tra quelli che erano, adesso si conosce forse di più perché probabilmente hanno cominciato anche a scrivere, ha cominciato a uscire l'informazione, ma tu, Annie, ci dicevi che all'epoca in Sudafrica non si sapeva, cioè non si parlava di questa situazione, l'informazione non circolava. Sì, no, niente, era tutto controllato, la televisione, i libri, tutto. Non si sentiva niente. Una sorta di comunismo ha fatto in completamente un altro modo, cioè un blocco comunque della libertà di stampa, quindi di... Sì, perché senza conoscenza di quello che succede non hai voglia di fare qualcosa. Certo, non vuoi ribellarti, per ribellarti a cosa poi in fondo? Se non... Sì, infatti, noi eravamo bene. Mm-hmm. Avevamo nostra vita e tutto, ma sembrava non c'era perfetto. Un po' un qualcosa, come dire, una piccola un piccolo punto interrogativo in testa per dire: ma dove sono? Cioè, sapevamo dove erano, però penso che è normale che la maggioranza delle persone, quando si trovano bene e non vedono la partita negativa di una situazione, non si chiedono veramente. Non è che noi facevamo qualcosa di male, certo, a loro, certo, capito? No, dunque... poi eravate anche voi in qualche modo, come dicevi prima, ospiti del paese, sì, per sì, cui sì, quando sì, uno poi è ospite in qualche modo tende anche a non... Sì, non... E poi dici che le cose pian piano si sono evolute e immagino che anche magari ci sono delle professioni che siano state poi raggiunte... anche da appunto dagli africani, no? Magari c'era, sì, prima, no, c'erano... era sempre possibile, per esempio, di diventare medico se eri mm-hmm, africano, per esempio, però la differenza era che non potevi lavorare in un ospedale per i bianchi. Quindi c'erano africani, gli ospedali per i neri, sì, c'erano come le c'erano cose... le scuole, come c'erano gli ospedali, eccetera. Mm-hmm. E ovviamente non avevano la qualità che avevano le scuole o l'ospedale per i bianchi. Mm-hmm. Però poco a poco questa situazione ha iniziato a cambiare perché c'era tanta pressione anche dall'estero e penso che tanti bianchi che ormai erano all'università, perché penso che è là che le persone iniziano a chiedersi ma cosa succede, perché eccetera, c'era pressione anche dall'interno del paese. E dunque poco a poco sì, le cose hanno cambiato. Voglio dire che anche prima delle prime elezioni 94, quando ha vinto Nelson Mandela, c'erano tanti cambiamenti. Per esempio già 92 le scuole erano aperte per tutti. Per dire, 93 anche... è l'anno del suo premio Nobel. Sì, nel 93 c'è stato anche un referendum in Sudafrica e i bianchi hanno deciso in questo referendum che si erano d'accordo di fare elezioni per tutti. E voi avete potuto partecipare a questo referendum? Al referendum no, però per le elezioni 94 sì. Sì, penso era un'ultima forza del governo bianca di raccogliere le più i vuoti più possibile, dunque hanno dato il diritto a tutti che vivano là, però cioè, è impossibile, gli africani erano miliardi, né? Erano sì, era in maggioranza, dunque, sì, esatto. Fondamentalmente a me quello che fa strano è che mi fa pensare un po' alla situazione che c'è stata negli Stati Uniti per tantissimo tempo, con la differenza che però in Sudafrica i neri erano la maggioranza. Era una legge, no, però i racismi... No, erano diversi, ma... Sì, però la grande differenza penso che è sempre che in Sudafrica era una legge scritta, apartheid, perché ce ne sono esempi anche in America del Nord, dove non erano liberi gli africani anche lì per tanti magari anni. Magari sarebbe bello se Cecilia, che si è documentata, potesse leggervi... Ma ho ritrovato quest'oggi alcune delle leggi dell'apartheid, che tra le quali c'erano la proibizione dei matrimoni interrazziali, quindi un bianco e un nero non potevano sposarsi, una legge che imponeva ai cittadini di essere registrati in base alle caratteristiche razziali, che è qualcosa che, siccome stiamo parlando, insomma, l'apartheid ha preso forma nel 1948. Sì. Ed è in qualche modo strano pensare come poi i diritti che in qualche modo poi si sono sviluppati con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in qualche modo in Sudafrica è rimasto sospeso, per cui adesso che noi diamo per scontato, no, di non essere discriminati su base di sesso, razza, religione, in Sudafrica per tanti anni, fino al 93, in realtà non è stato così, e il 93... noi tutti che siamo qui, insomma, in radio questa sera ce lo ricordiamo. Altre cose che per esempio erano proibite, c'era una legge che proibiva alle persone di colore di entrare in alcune aree urbane, quindi come dicevi prima c'erano proprio delle restrizioni, di utilizzare le stesse strutture pubbliche, fontane, sale d'attesa, marciapiedi, addirittura non potevano camminare in determinate zone, quindi insomma... Dai brividi, eh? Abbastanza scioccante, sì. Sì, io mi ricordo che c'era... Io non ho vissuto tutto quello, già. Beh, chiaro, io sono perché... nata in 74 e non mi ricordo tutto questo, era ovviamente il periodo da 48 fino agli anni 70. E poi ha cominciato... Dunque per dire che già un'evoluzione aveva iniziato. C'erano anche, c'era anche una grande pressione internazionale. Oggi leggevo che insomma anche le Nazioni Unite si sono molto mobilitate, ci sono state sanzioni. Però è stato anche, c'era anche tanta pressione degli Stati Uniti, perché a stesso momento c'erano anche problemi là negli Stati Uniti, al sud del paese, dove c'erano anche lì problemi. Le stesse restrizioni poi in fondo, no? Sì, e allora c'era un po' la pressione da dappertutto. Devo dire anche che in Sudafrica, Sudafrica è un paese molto molto ricco, e allora il governo ha potuto resistere a queste pressioni per tanti anni, perché ha un po' di tutto, non aveva bisogno di petrolio, non so che cosa, è così ricco, come paese. È ricco anche di minerali. Sì, sì, c'è l'oro, c'è petrolio, diamanti. C'è dappertutto, sì, tutto tutto, dunque potevano anche essere indipendenti senza bisogno. E allora anche questo ha aiutato il governo di resistere molto di più. E le elezioni del 93, tu te le ricordi? Eri in Sudafrica? No. Io però le elezioni erano in 94. A 94, e scusami. Ho votato in Grecia. Ah, in Grecia hai votato. Sì. E ti ricordi come ti sei sentita dopo, quando hai visto qual è stato il risultato? Ma no? Tutti sapevamo il risultato già, non era possibile che fosse vivere diverso in un paese dove, un paese di africani, che cioè era ovvio che Nelson Mandela avrei vinto. Io devo dire che ho dei vaghi ricordi di questa cosa, perché io all'epoca andavo dalle suore, e mi ricordo che ci parlarono di questa cosa del Sudafrica, ed è stata forse la prima volta che io ne ho sentito parlare, insomma ero piccolina, avevo 12 anni forse, o forse prima, comunque ne avevo già sentito parlare, comunque sapevo che c'era un uomo, che questo è quello che io mi ricordo almeno dall'epoca, che c'era una persona che era in galera, e perché fondamentalmente si batteva per i diritti dei neri in Sudafrica, E questa cosa mi ricordo mi aveva incredibilmente colpito. Sì. No, Nelson Mandela è conosciuto da tutti come una persona molto pacifica e senza lui non so quale poteva essere il futuro di Sudafrica. Perché sì. È vero che in Africa ce ne sono sempre le guerre tra le etnie. Sì, esatto. E dunque è un problema, volevano proprio evitare questa situazione. E su queste parole, quindi citando Nelson Mandela, mi farebbe piacere citare una delle sue, come dire, dei suoi aforismi. Lui diceva che l'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale, e attraverso l'istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico, che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera, che il figlio di un bracciante può diventare presidente di una grande nazione. È quello che facciamo di ciò che abbiamo, non ciò che ci viene dato, che distingue una persona da un'altra. E passo la linea alla regia. E siamo qui ai Colori dell'Anima, come ogni lunedì, dalle 21 alle 22. E le 22 bisogna dire che si avvicinano sempre di più, a ancora una manciata di minuti prima di lasciarvi a godere di questa bella serata brussellese, non troppo fredda, non troppo calda, ma prima vogliamo ancora chiacchierare con la nostra ospite d'onore stasera, Eleni, dalla Grecia, ma in realtà dall'Africa, poi passando anche un po' per Montpellier, l'Italia. E c'è stata una parentesi davvero interessante stasera con te, Eleni, grazie mille di averci fatto parte di questa tua esperienza. Prego. Anche abbastanza lunga, insomma, in Africa, tutta la tua infanzia, la tua adolescenza vissuta sì. In Sudafrica, e quindi di una testimonianza storica, quindi non un pezzo di carta che ci spiega, ma veramente la tua esperienza personale di vita, di come poi l'apartheid, come l'hai vissuta tu personalmente, come è cambiata, come è evoluta fino finalmente al 94, anno in cui Nelson Mandela è stato eletto, e tu hai partecipato a questa bellissima, a questa grande decisione, a questo grande cambiamento, votando, tra l'altro votando dalla Grecia, perché in quegli anni eri all'università. Sì, ero all'università già, sì. E quindi hai partecipato a un evento che ha cambiato, che ha fatto virare la storia del Sudafrica. Sì. Virare è proprio una traduzione dal francese. Faccio un... C'è stata una grande virata, e ci sono alcuni uomini che hanno questo grande ruolo, questa grande fortuna, e hanno dato agli altri la grande fortuna di diciamo di cambiare un po' nel corso della storia. Forse lui è stato uno di questi. Sì. Ma penso che stasera qui siamo tutti d'accordo. Sì, siamo tutti d'accordo. Sì, sì. Ma diciamo dall'Africa c'è, mi piacerebbe chiudere con un altro tema che mi sta a cuore, che è quello dell'arte, non quella di, diciamo, non l'arte che magari deve essere necessariamente la professione di qualcuno, ma quell'arte che ognuno può fare nella sua privacy del proprio appartamento e arricchire la propria vita. A quanto pare tu sei una di queste di questo tipo di artiste sì. Che così prende del tempo a casa propria per soddisfacimento forse personale, per un arricchimento personale, ma chi meglio di te può dircelo? Sì, mi piace molto dipingere diciamo, mm-hmm. Sì, sì. Sì. Utilizzando l'olio, e non so, è un hobby che è molto rilassante. E così non devo neanche comprare delle cose, delle pitture, perché metto le mie sul muro. Sì, perché devo dire che quando sono andata la prima volta a casa di Annie sono rimasta colpita dal numero di quadri, e lei tranquilla mi fa: l'ho fatti io. E io sono rimasta. Che dipingi, paesaggi, ritratti, allora faccio tante copie dei quadri che mi piacciono, di tipo di non di Picasso, per esempio, di un Gauguin, no? Di Gauguin, ho visto Gauguin, casa tua, sì. Renoir, Jacques Vetriano, che è un po' più moderno. Dunque, se vedo qualcosa e mi piace pingerla, e anche se vedo un foto, per esempio, che mi piace. E adesso sto provando di fare un po' il mio lavoro proprio, non fare le copie, per cambiare. Beh, però tanti muri ancora senza niente. Non ti preoccupare, io ho tutta una casa che è praticamente vuota, quindi se poi vuoi riempirla con qualche... Va bene, perché, lo noto. Perché poi devo dire che io li ho visti e sono veramente molto belli, molto colorati. Ma come hai scoperto? Sì. Perché non mi è una cosa... Mi piaceva molto fare disegni da quando era piccola, e poi un giorno, non so, 10 anni fa, mia mamma mi ha detto proprio di fare un corso. E così vedere un po' come si fa, perché avevo sempre paura del colore, facevo sempre le cose senza colore, e infatti ho visto che non era così difficile. Sì, e perché l'olio e non altro? Perché mi hanno detto che l'olio è più facile a correggere, e dunque se fai un errore, che è molto spesso, soprattutto quando non sei un professionale, una persona professionale, artista, dunque con l'olio puoi sempre andare anche 2 o 3 giorni fa a correggere. Mm-hmm. Invece se usi qualcos'altro, come si corregge? Devi proprio sapere come bene. Si corregge? Metti colore sul colore, lo cambi, lo copri. Sì, come l'olio non si... Perché è una pasta un po'... L'olio non si secca? Sì, ci metti velocemente. Allora è possibile, mettendo ancora un po' di un altro colore, puoi correggerlo. Invece se usi un altro tipo di materiale, non è possibile. Mm-hmm. In che ci sono dei momenti in cui ti piace dipingere? Stati d'animo, non so, una giornata? Sì, no, io voglio sempre dipingere quando sono in un museo, guardare i lavori degli altri. Però... Sei una di quelle che va col blocchetto? Sì. Dai. Tante guarda volte. C'è una bellissima mostra adesso al Museo delle Belle Arti, mi pare che Chagall. No, ho già l'hai visitato, già vista? Sì, sono già stata, penso che era il primo giorno. Su queste note di questa di questo sirtaki, è un sirtaki? Un sirtaki, facciamo un ballo. Non lo è. Che faremo i nostri saluti ai nostri radioascoltatori. Grazie mille di averci ascoltato, di essere stati con noi stasera fino alle 22 come ogni lunedì. Un grande abbraccio alle altre equipe dei colori dell'anima, ai nostri cari colleghi. Un bacione fortissimo. Il colore della serata: rosso. Rosso perché? Mi piace sempre il colore. È vero, rosso. Confermo che ogni tanto arriva tutta in rosso. The Lady in Red. La sciarpa rossa di stasera. Sì. E vuoi salutare qualcuno? Tanti saluti a tutti. Beh, a Laura almeno insomma. A Laura, non so se mi sta sentendo, però sì. Ciao, le mandiamo Laura, la registrazione. Okay. Ciao Laura. Grazie a tutti. Grazie a te di essere stata con noi. Grazie per l'illustrazione storica e artistica. E perché no, invitare insomma quanti ci ascoltano a coltivare insomma quello che le passioni, le loro passioni, anche se non per forza devono essere a livello professionale, ma possono semplicemente arricchire i nostri pomeriggi, le nostre serate, le nostre pareti. Un bacione a tutti.